Topic of our Dhamma talk this evening is Chitta Nupassana, namely mindful contemplation of the mind. L'argomento del discorso di questa sera è Chitta Nupassana, ovvero la contemplazione consapevole della mente. And this Dhamma talk is meant to support you in your practice in the sense of knowing the instructions given in the Satipatthana Sutta on how to be mindful of the mind. L'intenzione di questo discorso di questa sera è intanto per sostenervi nella vostra pratica e anche per conoscere meglio le istruzioni che sono date nel Satipatthana Sutta riguardo alla contemplazione, alla consapevolezza della mente. Now, in the beginning of the meditation practice, we are at times overwhelmed by worries, by regrets, by fear, jealousy, depression, anxiety, obsessive thoughts, high expectations, mental stress, and competition. I'll repeat. Allora, all'inizio di un ritiro, noi spesso siamo pervasi da degli stati mentali quali? La preoccupazione, vi dico quelle che mi ricordo poi ma non posso. Regrets. Allora, la preoccupazione, i rimpianti, fear, la paura, anger, rabbia, jealousy, gelosia, depressione, anxietà in Spanish. And then obsessive thoughts. Pensieri ossessivi. And then high expectations. Avevamo delle alte aspettative. And so, then mental stress. Poi dello stress mentale. And then competition even with one's fellow meditators. Uno spirito di competizione con i compagni di meditazione. And certainly even pride. E anche dell'orgoglio. And there could be so many others. Ce ne potrebbero essere tanti altri. Now, when those mental states arise, then we tend to identify with them, and then taking them for my worries, my fear, my anger, and so on. Quando sorgono questi stati mentali, abbiamo la tendenza a identificarci con essi e quindi a considerarli come la mia paura, la mia preoccupazione, la mia rabbia e così via. And certainly we would tend to perceive these mental states to be permanent and certainly quite substantial, and we think they are real. E li percepiamo come permanenti, come sostanziali, e li prendiamo per veri. And certainly then, when we undertake our meditation practice, at times we might go through an emotional storm. Quando intraprendiamo la nostra pratica di meditazione, a volte attraversiamo una vera e propria tempesta emotiva. Or when the five hindrances are involved, then it could be we could be a victim of so-called multiple hindrance attack. Quando sono coinvolti i cinque ostacoli, potremmo essere vittima di quello che viene chiamato l'attacco degli ostacoli. Now, in a nutshell, we're deeply entangled in the tangle of mental states. Quindi, detto in maniera molto concisa, noi siamo come intrappolati nella trappola, nel groviglio, degli stati mentali. And in order to disentangle ourselves from this tangle, we can do the following. E per liberarci da questo groviglio, noi possiamo fare le seguenti cose. And for instance, by observing the eight precepts, or in the case of the novices and so on, the ten precepts, we then will make sure that we do not transgress in any way, and as a result of this, we will not be plagued by a bad conscience, by remorse. E quindi possiamo intanto seguire gli 8 precetti o i 10 per i novizi, e quindi non trasgredendo questi precetti non resteremo vittima di una cattiva coscienza o del rimorso. And so, you know, if we carefully observe five precepts or eight precepts over a longer period of time, then we'll be doing wholesome activities or unwholesome deeds. E quindi se seguiamo i 5 o gli 8 precetti per un periodo un pochino più lungo, cosa faremo? Azioni positive, cioè o salutari o non salutari? È una domanda. Salutari, yes, wholesome deeds. And so wholesome deeds then will lead to. E quindi queste azioni salutari porteranno a. A wholesome mental state, they will lead to wholesome results, and they will lead to wholesome results or effects in the future. So, according to the principle, if we sow positive things, then we will, or if we sow, let's say, the seeds of a very sweet fruit tree. Then we will get those sweet fruits. But if we sow the seeds of a fruit tree which will bear sour fruits, well, we'll get those that tree with the sour fruits. E quindi avremo dei risultati salutari come conseguenza delle azioni salutari. E il principio è paragonabile a quello secondo il quale se noi piantiamo dei semi di una pianta che produrrà dei frutti dolci, allora avremo dei frutti dolci. Se invece pianteremo i semi di una pianta con dei frutti amari, di conseguenza otterremo dei frutti amari. And so this one, our future circumstances will be positive, mostly positive, based on wholesome deeds. Quindi le nostre circostanze future saranno prevalentemente salutari perché sono basate sulle nostre azioni salutari, positive. And in this way we begin to disentangle the tangle, but of course that's not disentangle it fully yet. E in questo modo noi cominciamo a sciogliere questo groviglio, anche se non lo sarà completamente ancora. Now, we may still be quite entangled when the five hindrances arise, and so another way of disentangling ourselves is by through the development of mindfulness and concentration arises more and more, and with the help of concentration we then suppress those hindrances. Quando saremo comunque continueremo a essere un pochino intrappolati in questi 5 ostacoli, c'è un'altra cosa che possiamo fare con lo sviluppo progressivo della consapevolezza e della concentrazione. Allora sarà in particolare la concentrazione stessa che in qualche modo ci aiuterà a liberarci dai 5 ostacoli. No. So it is through concentration that we can disentangle ourselves again a bit further, and then through the training in wisdom, so in other words what you're doing here, namely the development of intuitive knowledge, so through this we disentangle ourselves even further. E quindi con la concentrazione ci libereremo ancora di più da questo groviglio, ma poi andando avanti sarà con lo sviluppo della saggezza, ed è quello che stiamo facendo qui, quindi praticando questa saggezza intuitiva, ci libereremo ancora ulteriormente da questo groviglio. And so the development of wisdom at first happens in very simple ways, that let's say when some hardness arises, we observe it carefully and we come to know this is hardness and not softness, and the qualities of the hardness are such and such. Quindi all'inizio questa saggezza si sviluppa in un modo molto semplice. Noi riconosciamo che c'è della durezza, per esempio, riconosciamo che è durezza e non è morbidezza, e che le qualità sono queste in particolare, no? Quelle che osserviamo. And so during the beginning days of a retreat, we learn to distinguish what is what. What is what in terms of physical objects and what is what in terms of mental objects. Quindi all'inizio di un ritiro noi impariamo proprio a distinguere una cosa piuttosto che l'altra, e questo sia in termini di oggetti fisici che di oggetti mentali. And suddenly then, when we take a closer look at the mental objects or mental states, then sooner or later we will come to find, or we will come to know, that there are certain mental states that are wholesome and there are others that are unwholesome. And we will also come to understand that the unwholesome mental states will usually lead to suffering, whereas the wholesome mental states will usually be conducive to the arising of happiness. E quando osserviamo gli oggetti mentali o gli stati mentali, ci accorgeremo che anche lì è possibile distinguere tra stati mentali salutari e non salutari. Inoltre, ci accorgeremo che di solito gli stati mentali non salutari conducono alla sofferenza, mentre gli stati mentali salutari portano alla felicità. And suddenly then, as we go on to observe carefully, sooner or later we will come to the point where, let's say, fear arises in the mind, and then it's no longer my fear, but just fear. E poi a un certo punto arriveremo a osservare che, per esempio, quando sorge la paura nella mente, allora non è più la mia paura, è semplicemente la paura. And it's no longer my worries, but rather just worries. And it's no longer my pain, but just another sensation, just a process. E quando sorgono le preoccupazioni, non sono più le mie preoccupazioni, ma semplicemente preoccupazioni. Quando sorge un dolore, non è più il mio dolore, ma semplicemente un'altra sensazione, un processo. And certainly, so it is in these very, very simple ways that the first form of wisdom then arises, which is certainly then known as certainly the insight knowledge of discerning mind and matter. E quindi in questo modo molto semplice che giungiamo a sviluppare il primo tipo di saggezza intuitiva, che è conosciuta come la capacità di distinguere tra mente e materia. And so with this we disentangle ourselves some more from this tangle. E in questo modo noi ci liberiamo ulteriormente da questo groviglio, diciamo. And if you compare a person who is, let's say, not meditating with a person who has decided to come on a retreat and to meditate intensively, then such a person then will have meditated for at least 3-4 days, then you will see there's a huge difference between the two. E se confrontate una persona che non ha mai intrapreso la meditazione e invece una persona che medita, magari viene a un ritiro intensivo, anche già dopo 2 o 3 giorni, allora si vede una grande differenza tra i due. And, the difference already lies in the fact that the non-meditator is not necessarily aware of these two basic categories of objects, physical and mental objects, and also will not necessarily be aware of the different categories of mental states. E la differenza sta nel fatto che il non meditante non sarà necessariamente consapevole di questa differenza tra oggetti fisici e oggetti mentali, né riconoscerà questa particolarità, le particolari qualità degli stati mentali. a non-meditator will easily identify with the predominant mental states, and then especially if his or her views get attacked, then some serious consequences could be expected. E facilmente questa persona non meditante si identificherà con lo stato mentale predominante, e se le sue opinioni, i suoi punti di vista vengono attaccati, allora ci sarà una reazione di diverso tipo. So whereas a meditator will gradually, as we've discussed, see the difference between physical and mental formations, and will also then come to understand the difference between wholesome and unwholesomeness, and certainly then will identify much less with formations, in particular with views. Quindi, come abbiamo detto, un meditante invece, meditante, riuscirà prima a distinguere tra oggetti fisici e oggetti mentali, poi riuscirà a distinguere tra stati salutari e non salutari della mente, e quindi si identificherà molto meno con i fenomeni, soprattutto con ciò che riguarda le sue visioni, i suoi punti di vista, le sue opinioni. Now, next... As we continue with our meditation practice, we may then find how one particular object arises, and this then in turn leads to the arising of another object. It conditions another object. Continuando nella nostra meditazione, noi scopriremo come il sorgere di un oggetto porta al sorgere di un oggetto successivo. E quindi come gli oggetti sono in qualche modo condizionati uno dall'altro. And so when we see such connections over and over and over again, gradually we get the point that where formations are not governed by some supreme being, but rather they happen owing to certain circumstances or conditions. E quando noi vediamo questo ripetutamente, giungiamo a comprendere che l'accadere delle cose non avviene per via di un essere supremo, ma piuttosto ogni oggetto sorge come conseguenza di una determinata causa. And certainly this is already a major, or this will bring about a major change in our outlook on life. E questo porterà a un importante cambiamento nel nostro sguardo verso il mondo. Now, for those who have a strong adherence and belief in some supreme being, and then assuming that the supreme being is in charge of everything, well, to those this discovery here will be somewhat disappointing. Per coloro che hanno un forte attaccamento, una forte fede in un essere supremo, allora questa scoperta della condizionalità degli eventi o dei fenomeni può essere un pochino deludente. And so, with the arising of the second insight knowledge, we then disentangle this tangle even more. Quindi con il sorgere di questo secondo insight knowledge, questa seconda conoscenza dell'insight, allora noi ci liberiamo da questo groviglio ancora di più. And certainly then, as we've discussed already yesterday during the Dhamma talk, there are three times, namely past, present and future. And so as we continue to meditate, we will then see objects arising, we will see how they last for a certain while and undergo certain changes, and then also we will see how formations disappear. E come abbiamo detto ieri, esistono tre tempi, il passato, presente e futuro, e continuando con la nostra meditazione noi vedremo come gli oggetti sorgono, permangono per un certo periodo e poi spariscono. And certainly when at first as a meditator, one will accept that, well, one object arises, and then one observes it, it disappears, and then maybe another object arises somewhere else. Okay, one observes this, but nothing much happens, it disappears. And so one accepts change in that sense, yes, but when one starts to see that change occurs already within one single object, like one single rising movement, or one single falling movement, or one single pain, then the aspect of impermanence becomes pretty obvious. Allora, inizialmente sembra una cosa abbastanza naturale il fatto che sorga un oggetto e poi sparisca, e poi sorge da un'altra parte e poi sparisca. Ma osservando sempre più attentamente con l'andare avanti della meditazione, allora uno scopre che all'interno di un processo anche relativamente breve, come l'alzarsi dell'addome o l'abbassarsi dell'addome, già all'interno di questo ci sono questi cambiamenti, quindi c'è un sorgere e uno svanire. E quindi comprende più in profondità questo aspetto dell'impermanenza. And so in seeing the impermanence of formations, we gain, our views get rectified again in a major way. E quindi vedendo ripetutamente questo aspetto dell'impermanenza, allora le nostre opinioni vengono rettificate, si può dire, aggiustate ancora meglio. And so, to a certain extent, we can accept certain impermanence, and we see it in nature, we see it in the course of one day, we see it in the course of one year, etc., etc. So this certain people do understand. E quindi l'impermanenza ad un certo livello la comprendono tutti, cioè la vediamo tutti nella nostra all'interno di una nostra giornata, per esempio, o all'interno, o la natura, per esempio, come cambia. Quindi questo livello superficiale è una cosa abbastanza accettata. But there will be certain areas that for sure we don't assume to be permanent, wrongly assume. Però ci sono alcuni ambiti nei quali noi supponiamo che ci sia qualcosa di permanente. As children in a family, we assume that our parents are permanent. Per esempio, come bambini all'interno di una famiglia, noi supponiamo che i nostri genitori siano permanenti. And then when our parents decide to, let's say, break up or so, then this may come as a major, major challenge for the children. E nell'ipotesi che i due genitori decidano di separarsi, allora questo potrebbe significare per un bambino una grande sfida. And it is for this particular, and these days, the divorce rate over in many highly advanced or industrialized countries is relatively high, and so this happens again and again. And in Belgium, for instance, now there's a certain, in certain schools, children are being introduced at an early point onwards to the concept of impermanence, of change, just to prepare them for a possible change in the family structure. Siccome il tasso di divorzi è molto alto nei paesi industrializzati e sta crescendo, nelle scuole, per esempio, del Belgio stanno già insegnando i bambini sin da piccoli a prepararsi all'evento di un cambiamento nella struttura della famiglia. And then, there's another area where we assume permanence, namely, when it comes to the length of our life. And so, for the most part, we think, well, we'll get at least 60 years old, maybe even 80 years old. It depends on which country we live in. E quindi c'è un altro ambito nel quale noi supponiamo erroneamente che ci sia qualcosa di permanente ed è la durata della nostra vita. Quindi noi possiamo supporre di arrivare fino a 60 anni o di più, si spera 80 anni e così via. Dipende da, dal paese in cui ci si trova. So, if one gradually grows older and older and turns 60, 70 and then 80, gradually, of course, one gets, one has to face the fact of impermanence and has to come to terms with it. E quindi man mano che la persona invecchia, quindi si avvicina ai 60, 70, 80 anni, allora deve a un certo punto affrontare l'idea dell'impermanenza, deve affrontarlo. Come to terms, I can't think of it. Has to face it. Accept it. Deve accettarlo, sì, deve farne i conti, si dice in italiano. And then, if however, let's say, death occurs all of a sudden, owing to some motorcycle accident or this or that, and at an early age, then it's a big trauma, for let's say, for the family. Se invece la morte accade all'improvviso, come per un incidente di moto, per esempio, allora questo risulta essere un grave trauma per la famiglia. And there's still another area where we strongly, and deep down in the mind, where we strongly assume permanence, namely with regard to consciousness. E c'è un altro ambito dove in maniera molto profonda, molto radicata nella mente, noi supponiamo che ci sia permanenza, ed è la coscienza. And so, in the meditation practice, when hearing from, hearing reports from meditators, it's pretty obvious. After a while, they get used to, to the idea that material formations dissolve. They get used to the idea that, or the experience, that feelings dissolve. They also get used to the idea that perceptions eventually dissolve, and even that mental states are not permanent and that they dissolve. E quindi una cosa che si vede durante i colloqui, che i meditanti riferiscono il fatto che riescono progressivamente ad accettare abbastanza il fatto che i fenomeni fisici si dissolvano, anche le sensazioni siano appunto impermanenti, quindi si dissolvono, così come le percezioni e anche gli stati mentali. And so then the deep hope is, let at least consciousness be permanent so that my ego has something to identify with. La speranza profonda è quella di dire, fai in modo che almeno la mia coscienza sia permanente, di modo che il mio ego abbia qualcosa a cui aggrapparsi. And so then, slightly later on in the practice, when one at times sadness in a profound manner sees that even consciousness is not permanent but impermanent and it dissolves, then this may result in a sudden shock. E quando più in là nella pratica ci si accorge che anche la coscienza si dissolve e quindi che non è permanente, questo può risultare in uno shock. So, these are just some implications with regard to impermanence. Quindi queste sono alcune delle implicazioni riguardo all'impermanenza. And when one sees impermanence in one's own body and certainly in one's own mind, over and over and over and over again, then this serves as a preparation for the reality of impermanence. E quando uno vede questa impermanenza nel corpo, nella mente, ripetutamente, allora questo serve un po' come preparazione per una vera e profonda conoscenza dell'impermanenza. And certainly then, if maybe the next day or so you hold a teapot and unfortunately you drop it, and then you can deal with this. You say, well, this pot was meant to be impermanent. E quindi, or my nature is impermanent. Il giorno dopo, se per caso vi capitasse di far cadere la teiera e dovesse rompersi, allora potreste accettare questa cosa dicendo, beh, era nella natura della teiera essere impermanente. In this way, it would be much easier to come to terms with this loss of the teapot. E quindi in questo modo sarà più facile fare i conti con questa perdita della teiera in questo caso. Now, the other aspects that we come to understand, of course, and I'll shorten a bit, are unsatisfactoriness and non-self, absence of a self. E quindi gli altri due aspetti che andremo ad analizzare sono la insoddisfazione e l'assenza di un sé. And so it is indirectly experiencing each and every of those two that we then again disentangle ourselves from the tangle. E quindi è facendo esperienza diretta di entrambi questi aspetti che noi riusciremo ulteriormente a liberarci da questo groviglio. And so then as we continue to meditate, we will see formations as coming and going. E poi continuando a meditare noi vedremo le formazioni che sorgono e passano. No, this is what we discussed yesterday. E di questo abbiamo già parlato ieri sera. No. The instructions that the Buddha has given with regard to the contemplation of the mind are as follows. Quindi le istruzioni che il Buddha ha dato riguardo alla contemplazione della mente sono le seguenti. And how, O meditators, does a meditator abide contemplating mind as mind? E come, o meditanti, un meditante dimora contemplando la mente come mente? Here a meditator understands mind affected by lust as affected by lust. Qui un meditante comprende la mente influenzata dalla brama e la mente invece non influenzata dalla brama. And a mind that that is lust è proprio following. Desiderio sensoriale più che altro, sensuale. And so one also understands a mind not affected by lust as a mind unaffected by lust. Ah, e uno poi fa, sì, ho messo insieme due cose. Uno fa esperienza della mente non influenzata dalla lussuria, si può anche dire, come una mente non influenzata dalla lussuria. Quindi brama, lussuria o desiderio sensuale. And so, along the same line, one understands a mind affected by hate as affected by hate, and a mind not affected by hate as not affected by hate. E più o meno allo stesso modo uno riconosce la mente influenzata dall'odio come una mente influenzata dall'odio, e comprende una mente non influenzata dall'odio come una mente non influenzata dall'odio. Then the same thing for ignorance and a mind unaffected by ignorance. E poi la stessa cosa riguardo la mente influenzata dall'ignoranza e poi la mente non influenzata dall'ignoranza. Now, then breaking this the system of or the structure, the Buddha then goes on and says, one understands a contracted mind as contracted and a distracted mind as distracted. Quindi poi cambiando un attimo la struttura delle istruzioni, il Buddha dice il meditante riconosce una mente come constructed, did you say? Yes. Contracted. Contratta e poi riconosce una mente distratta. Quindi non è più non sono più opposti, Exactly. And so, the contracted state of mind stands for sloth and torpor, so it's your shrinking mind. Quindi la mente contratta corrisponde alla pigrizia, al torpore, quindi è una mente che si restringe. Whereas suddenly the distracted mind now refers to now restlessness and yeah to restlessness. E la mente distratta corrisponde all'irrequietezza. Now, these first four now pairs, actually three pairs, suddenly plus suddenly then the contracted and now distracted mind. Now, these form what are known as the ordinary states of mind. Quindi queste queste tre coppie più quest'ultima frase, no, rispetto alla mente contratta e distratta, vengono raggruppati e vengono chiamati gli stati ordinari della mente. And suddenly then, what follows are the four kinds of lofty mind, of higher mind. E poi segue la descrizione di degli stati un pochino più elevati, più alti della mente. So one understands a mind that pertains to the jhanas, which is known as an exalted mind, as exalted mind, and a mind that is not exalted, unexalted, as unexalted. E quindi uno riconosce una mente esaltata, e per questo si riferisce alla mente che conosce gli stati di jhana come mente esaltata, e riconosce una mente non esaltata come mente non esaltata. And suddenly the unexalted mind is a mind that an ordinary mind that indulges in the sensuous fear. E quindi una mente non esaltata corrisponde a una mente ordinaria che indulge alla sfera sensoriale. So this is your ordinary seeing consciousness, your ordinary smelling, tasting, touching, and so on and so forth. E quindi queste sono i processi ordinari del vedere, udire, toccare, gustare e via di seguito. And so an exalted mind is known as such because being in an jhana, being absorbed in a jhana, is a higher level of consciousness. E quindi la mente esaltata è così detta perché essendo assorbita in un jhana è in uno stato di coscienza superiore. And then, as a meditator, one understands the surpassed mind as surpassed mind, and the unsurpassed mind as unsurpassed. Surpassed mind is a mind pertaining to the immaterial jhanas. Ok. Quindi qui non so come tradurre in italiano, surpass è una mente going beyond. Sì, che è sorpassata, cioè la mente che va oltre praticamente. Quindi il meditante riconosce la mente che va oltre come mente che va oltre, mettiamola così. E invece la mente che non va oltre come mente che non va oltre. Quindi, usa questo aggettivo sorpassato e si riferisce agli stati gianici di materia sottile. Sì. And this will be explained later on a little bit further. Poi lo spiegherà un pochino meglio. And so, then one understands a concentrated mind as concentrated and an unconcentrated mind as unconcentrated. Questo è più facile, uno riconosce una mente concentrata come mente concentrata, una mente non concentrata come una mente non concentrata. And certainly then finally one understands a liberated mind as such and an unliberated mind as unliberated. Infine uno riconosce una mente liberata come mente liberata, una mente non liberata come mente non liberata. And certainly so your liberated mind is certainly to be understood as a mind that is either temporarily and certainly partly free from mental defilements. Come mente liberata è da intendersi la mente che è anche temporaneamente libera dai difetti mentali. Now, the mind consists of two aspects, namely consciousness and mental factors. Quindi la mente consiste di due fattori, la coscienza e il the mental factors. I fattori mentali. And so, consciousness is just taking in formations, whereas mental factors color consciousness. Quindi la coscienza è ciò che semplicemente riceve le formazioni, mentre invece i fattori mentali sono quelli che colorano la coscienza. And so the mental factors, or certain certain number, varying number of mental factors, will arise together with consciousness and will also disappear together with consciousness. E i fattori mentali sorgono insieme alla coscienza e spariscono insieme alla coscienza. And certainly those mental factors will modify consciousness. E questi fattori mentali modificano la coscienza. Now, when we undertake mindful contemplation of the mind, and let's say anger arises, then we take this anger as an object and we simply just label it as anger, and then we try to observe it in a non-reactive manner and we try to know its nature. Quindi quando intraprendiamo questa contemplazione della mente, allora se sorge un oggetto mentale come la rabbia, per esempio, noi la etichettiamo come rabbia, poi cerchiamo di osservarla in maniera non reattiva e cerchiamo di conoscerne la natura. Now, meditators, new meditators frequently assume that, especially with regard to difficult mental states, we should try to get rid of them as quickly as possible. I nuovi meditanti, soprattutto, ritengono che, soprattutto con gli stati mentali negativi, noi dovremmo cercare di sbarazzarcene al più presto possibile. And this was not the Buddha's idea at all. E questo non era affatto l'idea del Buddha. And in Anguttara Nikaya, volume 5, section 39, there is a passage that is relevant to this point. Nell'Anguttara Nikaya, capitolo 5, paragrafo 39, c'è proprio un testo che si riferisce a questo particolare aspetto. Monastics or meditators, there are things to be abandoned with the body, not with speech. Allora, o meditanti, ci sono cose che vanno abbandonate, not with body, to be abandoned with the body, and not with speech. Not with speech. Che vanno abbandonate con il corpo, non con la parola. And to explain this point right away, when it comes to bodily transgressions, let's say we walk around kicking things away, and certainly this is obviously offensive behavior, this is to be abandoned with the body and not through speech, and it's to be abandoned right away. Per spiegare subito questo punto, prendiamo per esempio il fatto che una persona cammini dando calci alle cose. Questo ovviamente è un comportamento negativo. Allora, questo va abbandonato con il corpo e non con la parola, e va abbandonato subito. And certainly then, the Buddha goes on to say, there are things to be abandoned with speech, not body. E poi continua dicendo, ci sono cose che vanno abbandonate attraverso la parola e non attraverso il corpo. And this, then refers to verbal transgressions. E questo si riferisce a delle trasgressioni verbali. So, these verbal transgressions, you don't abandon them through bodily actions, but by stopping this unwholesome form of speech. E allora queste trasgressioni verbali vengono interrotte, diciamo, non attraverso il comportamento del corpo, ma interrompendo il comportamento errato a livello di parola. And suddenly then, next we have things to be abandoned neither with the body nor with speech, but by insight on seeing them, that's the third group. Quindi il terzo gruppo corrisponde alle cose che non vanno abbandonate né con il corpo né con la parola, ma con questa intuizione, insight on seeing them. Questa intuizione, questo insight riguardo al vederle. And this satnyadin refers to mental transgressions such as the arising of lust, of malice, of delusion, of grudge, and so on. E quindi questo si riferisce a, a, come dire, a tutti gli oggetti che sorgono nella mente, e quindi il sorgere, per esempio, appunto del desiderio, del malice, della malizia, delusion, dell'illusione, and then grudge. E del grudge vuol dire il fatto di avercela con un'altra persona, and then so many others. E poi ce ne sono molti altri, so with regard certain to these are mental transgressions. One would think to abandon them right away, but the Buddha says no, wait a minute. Take a look at them, study them, learn from them by looking at them, by seeing them, watching them carefully. E quindi queste sono delle trasgressioni mentali, e uno penserebbe che anche queste vanno abbandonate immediatamente. Il Buddha invece dice di no, di prendersi il tempo per osservarle, per studiarle, per comprenderle pienamente. Sì, the problem with human nature is that if we happen to be a terribly conceited person, we might not even be aware that we're conceited. We may think we're quite normal. Il problema con la natura umana è che noi potremmo essere una persona molto presuntuosa e non accorgerci neanche di essere una persona presuntuosa. Ci riteniamo una persona normale. And so by observing this particular mental state again and again in our meditation practice or outside of an intensive retreat, gradually we will get the point that we're actually quite conceited. E quindi osservando ripetutamente questo stato mentale, sia in un ritiro che fuori da un ritiro, allora noi potremo renderci conto che siamo effettivamente una persona presuntuosa. And there's so many other types of mental inclinations, or what's the word for it, mental temperament, tendency would be a good word. So there are plenty of such mental tendencies or patterns that are clearly unwholesome, but because we never really care to take a closer look at them and to observe them for a longer period of time, and so then we just consider this is normal. E ci sono tante tendenze mentali o dei modelli, diciamo, delle strutture mentali che e noi non ci prendiamo mai il tempo di effettivamente soffermarci ad osservarle, a conoscerle pienamente, e quindi le prendiamo per scontate, ci sembrano delle cose normali. And it is by starting to pay attention to them, then gradually we get the point, and then we can start weakening the respective tendency or pattern. Ed è solo quando cominciamo a osservarle, quindi a guardarle con più attenzione, che possiamo in qualche modo indebolirli e liberarci di questa tendenza così non salutare o trasgressiva. Later on in the practice, at certain points, if you've observed a certain, let's say, unwholesome or a wholesome mental state already many times, you're really well familiar with it, and here it comes again, then you can cut it short, and then you just briefly label it, briefly observe it, know its nature, and let go of it. Quando poi più in là nella pratica, quando sono degli stati mentali, li si riconosce con più facilità perché si è acquisito una certa familiarità con questo stato, che può essere sia salutare che non salutare, allora a quel punto è possibile un semplice etichettarlo mentalmente, osservarlo velocemente e lasciarlo andare. You might certainly object and say, well, what about certain cases of extreme anger or in cases of extreme restlessness? Should I just, or extreme fear, worry, should I just keep on observing these states or not? This might get dangerous. Allora, voi potreste chiedermi, ma cosa succede nel caso di una estrema rabbia, un'estrema paura, estrema preoccupazione, irrequietezza? Allora, devo continuare ripetutamente ad osservarla perché potrebbe essere pericoloso. And certainly indeed, when it comes to extreme mental states, then do take the freedom to stop observing them, and then either open your eyes, get up and do some walking meditation, or maybe observe some physical object. Quando effettivamente questi stati mentali sono estremi o sono eccessivi, allora prendetevi la libertà di interrompere l'osservazione di questi stati, aprire gli occhi, fare magari una meditazione camminata, oppure portare l'attenzione su un altro oggetto fisico. Now, the instructions from the Satipatthana Sutta make it clear that there are states of mind attached to lust or connected with lust, and certainly then the opposite, not connected or unconnected from lust or with lust. E quindi le istruzioni del Satipatthana dicono molto chiaramente che ci sono degli stati mentali che sono collegati con il desiderio e stati mentali che non sono collegati col desiderio. And so, now when it comes to the term, terms such as without anger, this term may have different implications. There's not just one single meaning to it. Quando invece si tratta dello stato mentale o della mente priva di rabbia, allora questo potrebbe voler dire più di una cosa, ha delle altre implicazioni. Now, one interpretation of being without anger could be as being momentarily free from anger. Quindi una delle interpretazioni potrebbe essere il fatto di essere temporaneamente privi di rabbia. It could also mean, in an extreme case, that the mind is overflowing with loving kindness. E invece potrebbe anche essere, in un caso più estremo, che la mente è completamente piena di gentilezza amorevole. Or it certainly could refer to a relative absence of greed, hatred and delusion. Ma può anche voler dire una relativa assenza di avidità, odio e illusione. And certainly then the fourth possible interpretation of the term without certain anger would be in an absolute certain sense. And then the question is, who is absolutely free from anger? La quarta interpretazione di questo essere completamente liberi dalla rabbia può essere in senso assoluto. Allora uno può chiedersi, ma chi è che è effettivamente libero dalla rabbia? So, this describes our ordinary beginning meditator. Descrive un po' il nostro principiante, meditatore principiante ordinario. Yes, Philip? No, opposite. No. Oh, the opposite. So, the highly advanced meditator. Well, this refers to an arahant. Actually, well, totally without anger is an anagami, and then also an arahant. Beh, questo descrive la condizione di un arahant o di un anagami, che sono completamente liberi dalla rabbia. Now, those ordinary states of mind we've just explained already wherever necessary, and now briefly let us explain those higher states of mind. Quindi abbiamo descritto questi stati ordinari della mente, passiamo invece a parlare degli stati più alti, più elevati della mente. And sadness of the exalted sadness state or great sadness state of the mind refers to states that arise, for instance, during samatha practice, in particular when we do the Brahma Viharas, namely contemplation of contemplation of loving kindness meditation, and then contemplation of compassion, karuna, of sympathetic joy and of equanimity. Allora, questa mente esaltata o grandiosa, diciamo, si riferisce alle pratiche di samatha e in particolare alla pratica di Brahma Vihara, cioè la contemplazione della gentilezza amorevole, della compassione, della gioia compartecipe e dell'equanimità. And so this term exalted mind or great mind is usually used in the context of the Brahma Viharas. E quindi questa mente esaltata o grande, grandiosa è di solito riferita proprio alla pratica dei Brahma Vihara. Now, as for the term surpassable and unsurpassable, this requires a little bit of explanations. Ecco, per quanto riguarda invece questa seconda categoria, che non sono in grado di tradurre, quindi surpassable or non surpassable, quindi una mente che va oltre o una mente che non va oltre, questo richiede una maggiore spiegazione. And certainly when you undertake intensive jhana practice, then there will be certain jhanic factors there. And so then in order to move from one jhana to the next, you have to surpass, you have to abandon one, the lowest of the jhanic factors. E quindi questo si riferisce alla pratica dei jhana. Quindi quando si passa da ci sono sempre dei fattori jhanici coinvolti, e quando si passa da un livello di jhana o a un jhana a quello successivo, e quindi si sorpassa in questo senso, bisogna abbandonare determinati fattori jhanici. But then when you've gained the fourth jhana, then there's nothing more to be abandoned, and thus it becomes an unsurpassable state. Però quando si raggiunge il quarto jhana, allora non c'è più nulla che deve essere abbandonato, quindi nulla da sorpassare, e quindi diventa una mente non sorpassabile, diciamo, non c'è più nessuno. So this term unsurpassable then has its meaning in the context of the samatha practice, and in the context of the satipatthana or vipassana meditation, it actually refers to full awakening, so which is an extremely high state. Okay. E quindi questa mente, appunto così, che va oltre, o la mente che non va oltre, si riferisce nello specifico alla pratica di samatha, quindi la pratica dei jhana, ma nel contesto della vipassana si può intendere come la piena illuminazione, diciamo, il pieno risveglio. E quindi è una mente totalmente liberata. Now, the term a concentrated mind, has two interpretations. Concentration or a concentrated mind could certainly arise during samatha practice, but it could also arise, or it will also arise, during vipassana practice. Allora, anche per quanto riguarda la mente concentrata, possono esserci due interpretazioni, perché si può avere una mente concentrata nella pratica di samatha oppure nella pratica di vipassana. And suddenly then the term liberated again has two meanings here, namely to be either temporarily or on a permanent basis freed from mental defilements. E anche per quanto riguarda l'ultima categoria, quindi la mente liberata, anche qui ci sono due interpretazioni. La prima, che poi la mente può essere temporaneamente libera dai difetti mentali, o invece completamente libera, temporary o permanentemente libera dai difetti mentali. And so, during the samatha practice, when the hindrances are suppressed, then one could possibly also speak of a liberated mind. Nella pratica di samatha, quando i difetti mentali, gli ostacoli sono temporaneamente soppressi, si può parlare di mente liberata. When they're temporarily suppressed. Yes, and that's the temporary suppression, right? Quindi quando sono soppressi temporaneamente si può già comunque parlare di una mente liberata. Now, when we undertake the meditation practice, all sorts of mental states might come up, and suddenly we need to remember these instructions on citta nupassana and apply them as best as possible. Quindi quando intraprendiamo una pratica di meditazione, molti di questi stati mentali potrebbero sorgere, quindi è molto importante ricordarci le istruzioni che sono state date relativamente alla citta nupassana, quindi la contemplazione della mente. So for instance, when we sit in meditation and suddenly we find that the mind is totally restless, then we need to observe this carefully. Quando ci sediamo e ci accorgiamo che la mente è completamente irrequieta, allora occorre osservarla attentamente. And so when we observe it certainly carefully, we will come to know how the mind jumps into the future, how it goes into the past, and it hardly ever stays, or it hardly stays with one predominant object for a longer period of time. E vedremo come la mente va nel futuro, va nel passato, come è difficile che rimanga con un oggetto per volta. And so, with this, we might then come to understand that the characteristic of restlessness comes in the form of disquietude. E quindi verremo a scoprire che la caratteristica dell'irrequietezza viene sotto forma di non quiete. And so then if previously our mind was relatively calm and then the mental factor of restlessness sets in, then we might observe in a very direct manner how the mind gets increasingly agitated. E quindi se precedentemente la mente ha uno stato di calma e poi improvvisamente viene l'irrequietezza, allora noi possiamo vedere come ci sia stato questo cambiamento e la mente sia diventata agitata. And suddenly then you might also see how the mind or a mind that is overcome by restlessness, how it is in a state of chaos or turmoil. E possiamo vedere come una mente in preda all'irrequietezza è in uno stato di caos o di disturbo. And so then as we keep on being mindful of this restlessness with good determination and patience, then eventually the restlessness will subside, and then sooner or later some calmness might arise instead. E quindi se noi continuiamo ad osservare con pazienza e determinazione, allora questa irrequietezza potrebbe poi finire e essere poi può tornare uno stato di calma. And with this then we might notice how the mind gradually, or how those disturbances in the mind will gradually quiet down. E potremmo osservare come questi disturbi nella mente gradualmente si tranquillizzano. And so we might also at times find when calmness arises in the mind and becomes a strong mental factor, how it gradually will crushes those disturbances. E possiamo vedere come quando si instaura uno stato di calma nella mente, come questa calma riesce a un po' di schiacciare quei disturbi. Mm. And so we might, you know, also, you know, detect that, you know, how, you know, the calmness manifests, namely, as peacefulness or coolness. E possiamo cogliere questa manifestazione della calma sotto forma di pacificazione e di frescura. And certainly then, in terms of, you know, pride and certainly conceit, a mental state that does arise on an occasion, then we might see that the mind gets into a particular mode, such as haughtiness. E potremmo accorgersi rispetto a un altro stato mentale che sorge abbastanza spesso, che è quello dell'orgoglio e della presunzione, che la mente è come se cambiasse la propria struttura, la propria modalità operativa, e si manifesta con una sorta di altezzosità, diciamo così. And then also there is, one might then come to understand its function of self-exaltation. E uno può comprendere la sua funzione, che è quella di autoesaltazione. And certainly one might also after a while get the point that certain pride and conceit, when predominant in the mind, then manifests as a desire to advertise oneself. E uno può vedere come, quando sono presenti nella mente l'orgoglio e la presunzione, la manifestazione è quella di volersi fare pubblicità. And certainly, so one wants to tell everyone about one's achievements. E uno vuole quindi dire a tutti dei propri successi. And so one might then also discover the physical the manifestations of pride and conceit. Uno potrebbe scoprire le manifestazioni a livello fisico dell'orgoglio e la presunzione. Such as a physical rigidity, con una rigidità fisica, such as an inner physical, and then also usually one's head seems to be is pretty upright and even pretty high. Uno tiene la testa molto alta, molto dritta, and the posture also tends to be pretty stiff. E anche la postura sembra essere molto rigida. And certainly then on a mental level, again, there may be ingratitude towards certain benefactors. E a livello mentale potrebbe esserci della ingratitudine riguardo ai propri benefattori. And so, also there's a frequent tendency, of praising oneself, extolling oneself, and disparaging others, putting others down. C'è anche la tendenza a esaltare se stessi e invece svalutare, svalorizzare gli altri, mettere, ridimensionare le altre persone. Mm. Now, this thing brings us to the end of our talk, and suddenly let me wish may... through or with the help of the contemplation of the mind, Chaitanya Upasana, Satipatthana, may you gradually come to understand your own mind and its different factors better and better, and certainly thus may gradually your mind become a well-trained mind. Allora, per finire il discorso, il Venerabile augura a tutti che attraverso la contemplazione della propria mente, Chittan Upasana, uno possa arrivare a conoscere sempre meglio la propria mente, i fattori della propria mente, e possa quindi trasformare la mente in una mente addestrata, allenata. And certainly in the long run, this certainly then leads to the arising of more and more wholesome mental states. And then don't forget also to be mindful of the wholesome mental states, and eventually may the contemplation of the mind lead you to the realization of the path of stream entry. E quindi questo, che questo possa portare a un maggior numero di stati mentali positivi, salutari, e non dimenticatevi di essere consapevoli anche degli stati salutari, e che quindi questo gradualmente vi possa portare a raggiungere lo stadio dell'entrata nella corrente. And that's it. E finiamo qui. Salve.